Melog, la realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Ci sono notizie, anche se accreditate da illustri organi di stampa, che molte volte lasciano perplessità. Io questa mattina vorrei esprimere tutte le mie perplessità, senza naturalmente porre limiti alla buona fede della fonte, a un paginone uscito su R2 Stili di Vita, pagina di Repubblica, il 17 febbraio, titolo Mamme, amorevoli, premurose e indulgenti, le italiane prime in classifica. Tratta di una inchiesta fatta dal Wall Street Journal che, dopo aver messo a confronto i modelli proposti all'editoria, oltre a coccoli invidiabili manicaretti, le mamme italiane offrono ai figli un'educazione varia e piena di stimoli. E viene fuori che in una classifica di mamme prese da tutto il mondo, le italiane sarebbero migliori, o perlomeno sono quelle che hanno il predominio. I modelli a confronto, devo dire, sono piuttosto eterogenei. C'è la mamma italiana, che è la mamma chioccia, si preoccupa di offrire una buona cucina, è affettuosa e protettiva, ama i figli e si occupa di loro. Questa è la mamma italiana, che è la migliore di tutte, perché certo, nei confronti della mamma boliviana, che è la mamma inca, dice è stoica devozione per la prole, è veramente in tutto il Sud America. E questo non so cosa voglia dire, la mamma inca. Mi fa un pochino più sorridere la mamma cinese, è la mamma tigre. Vieta la televisione e i videogiochi, impone lezioni di musica con preferenza per pianoforte e violino, tiene i figli sotto pressione, manca una postilla, mette nel tritacarne i figli se sono di sesso femminile. Questa è la mamma tigre cinese. La mamma francese è la mamma rilassante, lascia i figli liberi di giocare, non li ossessiona con troppe aspettative, niente cibo spazzatura, nemmeno fuori pasti, quindi niente merendine, niente campionesse in disarmo che ingozzano le figlie di merendine, come accade alle nostre latitudini. Poi c'è la mamma gallese, che è la mamma silenziosa, e la mamma statunitense, che è la mamma nevrotica, ha paura di tutto e pretende i baby geni. Ecco, io questa mattina vorrei sottoporre al pubblico che ci ascolta sempre con grande attenzione questo tema. Siete convinti che esista una fattispecie particolare legata all'essere mamma alle nostre latitudini? Come è la mamma italiana? Noi siamo abituati a considerare come un passaggio doveroso, pietoso, pieno di sensi di colpa, di ricatti, di amorevoli tensioni, quello che abbiamo con le nostre mamme. La mamma che si squarcia il ventre per partorirci, che si massacra i capezzoli per allattarci, che sta a notti insonni per farci dormire, per cullarci, poi ci fa i compiti, poi ci segue e poi ci porta fino all'adolescenza e poi all'età matura, è la mamma che non dovremmo mai abbandonare, perché per questa sua martirio, questa sua tortura infinita, noi dobbiamo alla mamma un'infinita rigratitudine che ci terrà legata a lei per tutta la vita che lei ha a disposizione, e la nostra residua poi non è un problema che a lei riguardi. Potendo, si occuperebbe anche di quella. Ma è veramente così? Veramente noi ci culliamo uno stereotipo? Ci sono dei segni, dei sintomi di novità, di cambiamento? Ci sono le mamme che possono essere diverse? Beh, questa mattina con illustri autorevoli ospiti di questo parlerò, ma soprattutto conterò sul vostro contributo. 800 24 0024. Mamma! Mamma, mamma, mamma, mamma, che c'è che te urli? Ma che te strilli? Che cosa vuoi? Ma mi spieghi? Mo non ti spiego proprio niente, mo io c'ho da fa, c'ho da spicciare, c'ho da pulire, sta casa è tutta a mezzo, sta casa è uno schifo, non so se me ne vado io da sta casa come andiamo a finire. Io guarda qua, è veramente io non ce la faccio più, qualche giorno o l'altro io via, bocca mia, fammi sta zitta, è buona che qui a casa è uno schifo, c'è una zella in giro che non sia mai viene qualcuno, che figura che ci famo. Ma tu ti rendi conto, io a 18 anni ho scoperto che mia madre puliva casa non tanto per noi che ci abitavamo e che gli volevamo bene. Mia madre puliva casa per questo ipotetico qualcuno che doveva arrivare a casa nostra senza aver fatto una telefonata, mandato un telegramma, avvisato attraverso qualcuno. Ma chi sei tu? Ma che vuoi tu da noi? Tutta una vita in apprensione, tutta una vita aspettasto qualcuno, anche nella notte, uno stridio di gomme. Noi ci giochiamo, ci piace indulgere sul luogo comune, ci piace giocare con i nostri vizi, con le nostre limitatezze, è uno strumento formidabile di contenzione e anche di contenzioso, il mammismo italiano, siamo bamboccioni, siamo degli sfigati, se rimaniamo a casa e non ci verremo presto e prendiamo il volo, ma tutto questo quanto corrisponde a verità? Quali sono i modelli reali, concreti e prevalenti del mammismo italiano? Questa mattina ne parlo con due persone, sono due punti di vista antitetici. L'una è l'autrice di un libro libro è Cristina Perrotti. Buongiorno Cristina Perrotti. Buongiorno. Assieme a Simona Rivelli ha scritto SOS Mamma, tanti consigli di salvezza per mamme super stressate, editore Red. Questo è un manuale che concretamente, senza pregiudizio e senza filosofie, dice alle mamme qual è la maniera migliore, più razionale e più proficua per il per la propria salvezza con il proprio figlio, per fare il mestiere di mamma tutti i giorni. Lei, Cristina Perrotti, questo libro l'ha scritto, penso, in cognizione causa, essendo mamma di un figlio di 8 anni. Lei è convinta innanzitutto del senso del pezzo del Wall Street Journal che dice che le nostre mamme sono le migliori del mondo? Beh, io lo ridimensionerei, nel senso che non abbiamo vinto sicuramente il Nobel per la scoperta scientifica più importante degli ultimi 100 anni e neanche l'Oscar per la migliore interpretazione nel film. Leggo premurose, indulgenti e presenti, sicuramente sono degli aggettivi che possono calzare a pennello per molte mamme del mondo non italiane. Quello che mi piace pensare è che è un'occasione questa che ci permette di tornare a parlare, continuare a parlare di mamme italiane, perché mi piace pensare che sia stata riconosciuta anche l'ingegno, la creatività, la costanza e la forza che le mamme italiane in questo contesto dimostrano per 365 giorni l'anno. Nella fisiologica carenza di servizi che pensa le mamme, noi abbiamo l'idolatria della famiglia come ente astratto, inesistente, metafisico, irrorato da sante illuminazioni, però difficilmente nei posti di lavoro esistono asili nido, bisogna fare delle file bestiali per poter collocare un figlio, si pensa che la mamma è l'unico supporto, è l'unico essere che si può occupare dei figli, le mamme stiano a casa e si occupano dei figli, così siamo tutti più contenti. Andiamo avanti, il secondo ospite è Fabrizio Blini. Fabrizio Blini, buongiorno. Buongiorno. Lo abbiamo già avuto in studio, invece è un cinico distruttore del mammismo, ha scritto Mamma mia, la figura della mamma come deterrente nello sviluppo culturale, sociale, economico dell'Italia moderna. Baldini Castolti Dalai editore. E Fabrizio Blini ribadisce qua lei il suo concetto che in realtà la mamma è quella sorta di barriera che impedisce dalla nascita l'accesso a un'età adulta. Beh, sì, sicuramente è una resistenza culturale molto forte. Infatti, questa notizia del Wall Street Journal, al di là della curiosità sul metodo d'indagine, di come hanno fatto a determinare questa classifica, che è abbastanza curiosa, però mi sembra che ci sia un elemento di conflittualità. Dice, hanno messo a confronto i modelli proposti all'editoria, quindi hanno letto libri come i vostri, hanno detto, ah vedi, dai libri viene fuori questo. È un metodo anche questo, non so che dire. Certo, opina. Comunque, delle due l'una, o le mamme, abbiamo le mamme migliori del mondo, oppure siamo un popolo di bamboccioni, perché tutta questa efficienza delle mamme a fronte poi di una riconosciuta ed internazionale figura dell'italiano come mammone e succube della figura materna non sta in piedi, insomma. Va bene, andiamo avanti con i luoghi comuni, con ciò che l'editoria ci consegna delle mamme italiane, e poi sentiamo, vedo che c'è già una fila lunghissima di mamme che vogliono dire la loro. Figlio, come sei buono oggi! Tutto ti lasci fare, tutto mangiasti, eppure lo pastrocchio di cioccolata volesti, e per la gioia da mamma tutto quanto lo tracanna. Senza panna? Certo! Ah, bravo questo figlio mio, bravo, ancora figliozzo, ancora. Dormi, dormi, figlio santo, e la mamma sta qui accanto, mangiottando lui, figliuzzo, che era bravo Paolo Tozzo. La mamma che distrugge, fracchia la belva umana, un cinico e spietato delinquente, che però al suo punto debole è una mamma che è ancora più delinquente di lui. Lui esercita un dominio che sfocia nella tortura fisica in raffinate maniere per tormentarlo e per legarlo a lei. Ma ecco le mamme italiane che ci telefonano. Marina, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, ahimè, io mi riconosco in pieno nella... Mamma Chioccia. Sì. È brava. Però no, guardi, però non sono tanto orgogliosa di questo. Lo sono istintivamente, mamma Chioccia, capisce? Però non è. Però guardi, può lavorare su di sé, può fare una vita quasi normale se si impegna. Ecco, Però devo dire la verità, io sono, ecco, la tipica mamma italiana. Hai mangiato, ti sei coperto, attento quando esci, non attraversare la strada. I suoi figli quanti anni hanno, Marina? Il mio figlio più grande ha 38 anni. Che fortunato. Sì, beh, sposata con figli, scusi, non è che sia qui a fare il bambino. Però lo tiene sempre sotto le ali, naturalmente, non è che l'ha mollato. Beh, ad esempio, un paradosso, mia nuora è incinta e io ho avuto le nausee. Eh certo, fra un po' avrà anche il travaglio probabilmente. Ma può darsi, se toccasse mia figlia sì, avrei senz'altro una gravidanza isterica. Dopodiché... Perché lei vorrebbe essere praticamente la madre dei figli di suo figlio, diciamo la verità. Esatto. Potendo. Esatto. Ah no, hanno detto la verità. Lo so, però ciò non mi ha impedito, poi ho avuto un altro maschio, poi è finalmente arrivata la figlia, la bambina, la femmina. La quale è fuggita, se n'è andata a Londra. Beh, è l'unica che ha avuto un barlume di lucidità, penso, nella sua famiglia. E di lei non ha più notizie, immagino. Eh sì, è arrivata a Londra e però mi vuole tanto bene. Eh certo, le vuole bene. È facile voler bene al proprio aguzzino quando c'è un mare che ci separa da lui. No, sa cosa? Ecco, adesso parte tutto. In effetti non è che li ho soffocati, sono io che mi soffoco, che sto male, che vivo le loro cose negative, tra l'altro tra parentesi, in modo esacerbato, capito? Quindi secondo lei non deve esserci un momento di affrancamento dell'essere umano per cui questa affettuosa matrice che ci ha permesso di vedere la luce a un certo punto diventi qualcosa di staccato, un'alterità rispetto a noi? Quindi non è il momento, lei può occuparsi della sua vita lasciando i suoi figli 38enni occuparsi della loro, no? Beh, li lascio, però il cordone ombelicale non l'ho ancora staccato, io. Ma lei nella vita ha qualche altro interesse, stimolo, desiderio? Sì. E perché non si occupa di quello? Ma mi occupo anche di quelli, però in primis arriva questo rapporto con i miei figli. È vero, io mi riconosco nella mamma che ho ci salvato. No, io sono contento perché, sa, almeno non ho queste solite sensi di colpa da alcolista anonimo che direi sì, anch'io ho questo problema. Lei è fiera, è orgogliosa del suo vizio e quindi lo impugna e forse questo le dà anche motivo di sopravvivenza felice. Carmen. Pronto? Eccola, Carmen. Buongiorno, signor Nicoletti. Lei cosa è? Io sono una figlia di una mamma completamente diversa, glielo dico in due secondi. Sì. Allora, mia madre, mai da piccola fiabe, due lauree, una in fisica, una in astrofisica. I suoi racconti vergono sulla cometa Hubble. Ha 84 anni, usa il computer meglio di me. Che Margherita Hack, sua madre, scusi. Lei è la figlia di Margherita Hack, vorrebbe dire. Cosa? No, dico, è una nota astrofisica la sua madre. No, però ha scritto uno o due interventi, io adesso non mi ricordo in quale rivista di fisica, in una rivista di fisica è stata commentata come cervello notevole. No, solo su scienze forse, non mi ricordo. Comunque, lei da piccola non ci raccontava fiabe, però mi ha trasmesso un valore forte, quello della cultura, cioè quello di inseguire... Però non è una mamma italiana sua mamma? È italianissima! Ah, sì. E ha fatto, purtroppo ha avuto brutte esperienze nella guerra, lo dico perché ha 84 anni, è italianissima, con nonno piemontese e madre emiliana, italianissima, e mio padre è più o meno come lei, solo che essendo un padre si è occupato meno di noi, ma mia madre si è occupata di noi nel senso di cercare di dare loro dei valori, quindi le ripeto, niente sa, tanto meno cucinare, mia madre odia cucinare. Quindi ci ha sempre propinato e adesso quando ci propina delle cose... Delle schifezze che comprava già fatte. Per lei cucinare tempo sprecato. Volevo solo dirle che mia madre è l'opposto di questo. Sì, ma lei a sua volta lei ha avuto l'avventura di essere madre, Carmen? No. E quindi non sappiamo se questa meravigliosa lezione ha avuto buoni frutti, non sappiamo nulla. Ha avuto buoni frutti perché ho due sorelle con figli. Come sono le sue sorelle? Come mia madre, cioè hanno trasmesso gli stessi valori che mia madre ha trasmesso a loro e a me. Perfetto. Cioè, guardano le comete, imparare, parlano. Non smettere mai di leggere, non smettere mai di imparare, colloquiare con Gad Level sul suo blog quando può. Vabbè, questo non è che. Cioè, uno non può imporre ai figli questa cosa. Io non ho avuto. E sembra quasi una punizione, scusi, ma pensi un bambino dice devi colloquare con Gad Lerner nel suo blog, ma scusi, ma... No, lo fa mia madre, ma noi tutti... Beh, la madre può esercitare le sue perversioni come vuole, ma non può obbligarlo a un figlio, scusi. No, questo lo trovo veramente grave. Io spero che non abbia sentito il telefono azzurro, perché questo è veramente... No, non li obbliga, è solo... Io difatti, entrambe noi tre figlie adoriamo mia madre per quello che ci ha dato. Va bene, abbiamo capito. Davide, chiudiamo con Davide e poi sentiamo i nostri ospiti. Davide. Sì, buongiorno. Lei è una vittima, ha qualche dichiarazione da fare? Allora, io volevo semplicemente portare la testimonianza di un tipico figlio di una tipica mamma chioccia. Quindi un pulcino. Un pulcino, che diciamo ha cercato, in difficoltà è riuscito a trovare la propria autonomia. Quanti anni ha lei, Davide? Quanti anni? Quasi 29. 29, ancora vive 20... con la mamma? No, sono 2 anni che fondamentalmente sono riuscito ad andare fuori di casa, quindi vivere da solo. Ma è stata veramente una grande fatica. Ma riesce a tenere la distanza nonostante che abiti da solo? Allora, diciamo che mia mamma ha trovato un piccolo stratagemma, che è quello di dovergli per forza portare le camicie tutte le settimane per stirarle e lavarle. Ma esistono delle tintorie a buon prezzo, sinceramente? Ma cioè, guardi, ho provato in tutti i modi, ma non c'è stato niente da fare. Quindi diciamo che è un piccolo stratagemma che ha trovato per... Beh, lei ha consentito, io direi, mamma, le camicie me le lavo da sola. Povera mamma, insomma. Vede, povera mamma, è ancora vittima lei. Sì, un pochino sì, forse sì. Perché la camicia è una cosa intima, dalla camicia trova le tracce della sua vita personale e privata. La camicia racconta... Solo la camicia o anche altra biancheria? No, solo la camicia. Ho provato anche con altre biancherie, tipo calze, mutande, ma io sono ceduto solo sulla camicia. Lì certo, lì le tracce biologiche dicono tutto, è chiaro. Esatto. Va bene, dai, la capisco, Davide, la capisco. Allora, andiamo ai nostri ospiti. Cristina Perrotti, hai avuto una tranche de vie esasperata, ma penso abbastanza calzante. E anche indicativa, secondo me, il fatto che non abbia chiamato nessuna mamma che mi è coetanea, vuol dire che veramente queste mamme di oggi sono impegnate. Le chiamiamo. Allora, coetanea, dico, se ci sono mamme trentenni, trentacinquenni all'ascolto, chiamino, così almeno conforteranno con modelli diversi la nostra interlocutrice. 800240024, adesso arrivano, prego. Mi piace riportare la mia esperienza. Io vengo da una famiglia con tre figli, eravamo tre sorelle e siamo tre sorelle e una madre e un padre, e nella nostra famiglia alla fine degli anni 60 imperava il matriarcato. Mia madre si sentiva realizzata tanto nel suo ruolo di mamma quanto nel suo ruolo di donna lavoratrice. Questo sicuramente però era anche possibile perché c'era uno stato più presente, cioè all'epoca i figli non erano soltanto preziosi per la mamma, erano preziosi anche per la società che ci pensava, ci teneva. E il fatto che mia madre, prima di entrare nel suo posto di lavoro, avesse l'occasione di lasciare tre figlie all'asilo aziendale era una chance che oggi manca. Abbiamo delle eccellenze, abbiamo degli asili meravigliosi che ci invidiano in tutto il mondo. Ne basterebbero un po' di più, anche più anonimi, meno famosi, però sicuramente più presenti. Esisteva un modello, io ricordo, lo diciamo prima con gli ospiti, una visita che feci negli stabilimenti dell'ex Falck, luogo denso anche di polemiche, così, però c'era questa grande cittadella in cui c'era un altoforno sempre accesa, questa colata di acciaio che era il motore della città, in cui però mezzo secolo le persone avevano le loro scuole, i loro asili, insomma la fabbrica pensava anche al mantenimento dei figli dipendenti, che era considerato un bene prezioso, e poi quei figli crescevano e prendevano il posto dei loro padri. Erano modelli antichi, sembravano antiquati, probabilmente sindacalmente non considerati rispettosi della dignità dei lavoratori, proprio erano modelli che funzionavano. Fabrizio Blini, anche lei sulle telefonate. Ma guardi, dalle telefonate secondo me sono emersi due dati. Il primo, che l'Italia è l'unico paese in cui esistono dei pulcini di 80 kg. Il secondo, che è proprio questo, che tutti sanno in Italia come esce un bambino dal corpo della mamma. Quello che non si sa è come tirare fuori poi la mamma dal corpo del bambino. Che è questo, è un esorcismo forse necessario. Ha notato che l'ascoltatore ha stabilito una sorta di compromesso, è andato a vivere da solo, ma tutta la settimana la madre gli viene lì, gli prende le camicie sporche, gliele riporta pulite, quindi sono due viaggi, uno di andata e uno di ritorno, certo. Quindi in una settimana c'ha 2 giorni la mamma dentro casa e non si limiterà a lasciare il pacco lì, dovrà pulire, lavare, vedere, scandagliare, organizzare, non avrà mai una sua vita personale e privata finché la mamma non... Nel momento che Dio vorrà, schiatterà e lo lascerà finalmente in pace. Certo, anche il cibo costituisce una forma di ammanettamento proprio, perché io porto il contenitore con il cibo dentro, di modo che poi obbligo il figlio a riportarmi il contenitore o ad andare a prendere il contenitore. Sì, sono espedienti. E questo fa capo a una legge, poi, che è quella che in Italia ciascuna mamma cucina e lava meglio di qualsiasi altra mamma. Per quello l'appalto non viene dato. Vogliono creare una dipendenza nel cibo come se fosse una sostanza psicotropa di cui non possiamo più fare a meno, ma confidate nel fatto che esista il metadone per liberarvi dal ragù della mamma. Melog, la realtà condivisa. Perché la mamma è sadica, signora. La frase preferita della mamma è: ve ne accorgerete quando non ci sarò più. È una tragedia, signore mio. Lo sport preferito della mamma è quello di farti venire i sensi di colpo. Tu la chiami al telefono e dici: pronto mamma, come stai? Lei ti risponde: chi parla? Che ti dice: mammina, cazzarola, tieni un figlio solo, chi ha da parlare? La mamma è capace di dire cose inenarrabili. Ho i brividi, forse ho la febbre, mettiti il golf. Dice: mamma, mettetelo tu, ma che può avere? La mamma è capace di dire: cambiati la mutanda, che se vai sotto un trattore e ti portano all'ospedale. Che figura ci facciamo? Ma come arriva a ragione? 800240024, Giobbe Covatta parla e naturalmente elenca tutta una serie di frasi, di modi di dire, siamo sentiti dire tutti, ma tutti chi? Noi di una generazione che ha 50 anni e più, forse. Probabilmente questo modello di mamma che si preoccupa più della sgommata sulle mutande piuttosto che del figlio sfracellato sotto il trattore è una mamma che appartiene alla generazione passata. Mi viene a pensare queste mamme incoronate dal Wall Street Journal, che ha fatto un rassegna di mamme nel mondo, però o confrontando i modelli proposti dall'editoria, ha osservato le mamme italiane rispetto a un riflesso sull'editoria, quindi sui mezzi di comunicazione, di un modello di mamma che non esiste più. Le mamme contemporanee, le mamme trentenni, trentacinquenni, anche quarantenni, ancora non sono riuscite a conquistarsi la prima fila nel racconto dei media. Ancora i media parlano di mamme che in realtà sono nonne, sono suocere, hanno dei figli giganteschi. 800240024, chi sono le mamme italiane? Franca. Buongiorno. Dunque, io sono una mamma un po' diversa, perché sono rimasta vedova molto giovane e naturalmente ho vissuto sempre con mio figlio. Ho detto: poi prima o poi si sposerà. Infatti finalmente a 35 anni si è sposato. Io sono scappata di casa, ho lasciato la casa a lui, alla moglie, e ho detto: fate la vostra vita. Niente, dopo un anno lui si è separato e è tornato da me. Capisce? E quindi? Quindi a un certo momento c'è anche un bambino, io ho detto che non voglio assolutamente mettermi a fare la nonna a tempo pieno, invece lui è sempre da me, mangia da me, io chiaramente gli devo andare a pulire un appartamento che è vicino a me, pulire la roba. E lui deve anche mantenere la moglie, naturalmente. Non me ne libero, non riesco. No, dico, lui deve anche mantenere la moglie da cui si è separato, perlomeno pagarle gli alimenti. Appunto, che è una bella situazione. Obbligata, perché è sempre mio figlio, solo che non riesco a capire come fare per, addirittura mi fa rabbia perché non riesco più neanche a essere appetitosa, espansiva, perché è sempre lì dietro a me, sembra che ogni cosa me la dice a me, ogni problema me lo scarica, e io non posso sempre. Sono già ormai quasi 40 anni, io non ne posso più. E quindi dico sempre: non ti invito più neanche a mangiare, non voglio più sapere, ma non c'è niente da fare. E lui che viene, come fatto? Quindi non siamo noi mammone, sono i figli che non si staccano, non sono come noi, indipendenti come eravamo. Loro sono sempre così. Quindi Franca, con la sua dolorosa vicenda, alla quale partecipiamo con profondo senso di affettuosità nei suoi confronti, non si riesce a liberare dal figlio, le dice: io me ne sarei liberata volentieri, ma torna a casa scornato dopo il matrimonio andato a male. E quindi questo figlio però in fondo da lei ha preso questa maniera di far sempre conto sulla mamma, perché eravamo soli, è rimasta vedova presto, è stato il bastone della sua solitudine in età più giovane, e adesso naturalmente raccoglie. Io ho rinunciato anche a rifarmi una vita per lui, perché pensavo non è giusto che io metta un uomo in casa che non è suo padre. Ma quindi lei ha rinunciato agli uomini per suo figlio? disperato, all'amore proprio, un amore disperato che io ho lasciato per non risposarmi. Che devo dire? Franca, secondo me ha fatto qualche sbaglio, ma non posso essere il suo giudice. E adesso tiene il figlio, il nipote e anche la ex nuora che lui dovrà mantenere. Mi spiace. Alice. Ecco, buongiorno. Ah. Io sono una mamma diversa, sono una mamma giovane. Oh, finalmente, l'abbiamo chiamata all'appello. 28 anni, brava. Sì, ho fatto Cristina a 27, quindi ora diciamo che ha un anno. E come diciamo si organizza la vita? La vita è complicata, diciamo che se io non avessi avuto una famiglia alle spalle, mia madre che comunque è una mamma giovane che mi aiuta, sarebbe stato un disastro, perché io sono giornalista e come sa bene la vita da giornalista è complicata, soprattutto se c'è un bambino, quindi contratti che non vengono rinnovati. Io sono giornalista, anche mia moglie, abbiamo allevato due figli da soli, però esatto. C'è possibilità, senza nessun parente, quindi accade che si possa fare anche questo. Esatto, c'è possibilità, però c'è anche il problema degli asili nido, perché gli asili nido sono... Il problema dell'Italia è questo fondamentalmente, perché non prendono i bambini, quindi sei costretto a mandarli agli asili privati. Comunque io volevo dire una cosa, da mamma giovane, andando in giro, comunque interfacciandomi anche con le altre mamme, e più vado avanti più mi rendo conto che se i figli sono mammoni, appiccicosi, rompiscatole, è colpa dei genitori. Guarda un po'. È colpa dei genitori, perché comunque mia figlia, che è una bambina... Io e mio marito cerchiamo di lasciarla molto libera e fa tutto quello che vuole, se si vuole buttare in mezzo alla sabbia si butta in mezzo alla sabbia, vuole mangiare la sabbia, la sabbia la deve mangiare. È una bambina comunque che vive molto più serenamente, non ha costrizioni, non la... Sì, avrà ogni tanto un po' di costipazione se gli fate mangiare la sabbia, solo quello, però per il resto sarà una bambina felice. Sentiamo Cristina Perrotti, che ricordo che ha scritto assieme a Simona Rivelli un manuale SOS Mamma, tanti consigli di salvezza per mamme super stressate, edizioni Red. Questo è il tipico esempio di mamma che lei ha chiamato all'appello, una professionista. Ecco, quali sono i consigli di salvezza per questa mamma? È giusto far mangiare la sabbia al figlio? Adesso lo uso come metafora di una libertà che si lascia ai figli, non lo so, è sulla strada giusta, sarà questo il modello che andrà a sovrapporsi, finalmente emergerà anche nell'editoria di mamma antitetica rispetto alla mamma di Fantozzi, di Fracchia, di Giobbe Covatta e via dicendo. E mi piace immaginare la mamma di oggi come una mamma che si è affrancata dai cliché che sono fin troppo facili. Sì, mi piace l'approccio di Alice. Nel manuale, in SOS Mamma, diamo la voce, lo spazio a un modo personale di essere mamma oggi, lontanissimo dai cliché. D'accordissimo con Alice del fatto che il problema sono gli asili, e spesso gli asili nido comunali costano quanto quelli privati. Questa è un'altra cosa che va detta, e va detto anche che la risposta che parte dal basso delle ludoteche, degli asili privati, spesso e volentieri vede una mamma dietro che, quando ha affrontato i problemi che conosciamo bene, ha pensato bene di risolverli mettendo su una struttura che accogliesse le altre mamme in difficoltà. Ma sai cosa ho pensato molte volte? In un momento così particolare, che si parla molto della mancanza totale di offerte di lavoro, di occasioni di lavoro, perché non c'è un'imprenditoria individuale e privata nell'andare incontro a questa carenza totale di servizi? Perché non è così raro trovare mamme che si organizzano e decidono di trasformare in professione quella che per loro in realtà è un obbligo della natura, cioè di occuparsi di figli. Ne conosco molte di mamme che hanno intrapreso questo percorso. Sarebbe un'attività imprenditoriale, secondo me, fortunata. Lo è, di fatto lo è. E ne conosco una in particolare al quale voglio bene, una mamma conosciuta online, campana, che ha un'associazione che si chiama Shea, sto parlando di Esther, un'amica cara che con due figli ha pensato bene di mettere su un'associazione proprio in risposta a questa cosa. Esiste ed è molto diffuso, non solo in Campania, in tutta Italia. Sentiamo Fabrizio Blini, che ci riporta al lato oscuro della forza. Sei convinto che questi modelli di mamme che stiamo in questo momento realizzando, che ancora non appaiono così evidenti, risolveranno il problema della mamma deterrente di sviluppo culturale? Ma bisogna uscire un po' da questa contraddizione perché da un piano di da un punto di vista culturale c'è sempre questa retorica, esaltazione della mamma, e quindi questo modello, tant'è che il Wall Street Journal ci ha fatto addirittura un articolo. Socialmente invece è una figura molto penalizzata, perché poi non trova le strutture per uscire da questo quadretto, come nel caso della prima telefonata in cui madre e figlio si sono mammificati dentro casa, no? Sto leggendo qualche sms, sono tutte dalla parte delle mamme, naturalmente. Non so in che modo si è cresciuto lei, ma avere una mamma tradizionale che ti vuole bene, ti vizia, è stato stupendo. Ci pensa poi la vita a toglierci i vizi, tutti aspettano che arrivi la falce della vita per riportarci a essere uomini, così usciamo da questo dolce Eden eterno delle carezze materne. E tutto questo impedisce che si realizzino poi delle strutture funzionanti ed efficaci per uscire da questo incubo. C'è sempre questa visione apocalittica, esatto. Da Celentano, c'è il paradiso e l'inferno, ci sono i buoni, ci sono i cattivi. Melog, la realtà condivisa. Gigi, su, svegliati. Frank, non ha tradito mai. Svegliati, Gigi, mi hai detto di chiamarti alle 7. E che ore sono? Le 11:30. Ma se ti ho detto di svegliarmi alle 7, scusa, che fai? Tu mi chiami alle 11:30. Io sono venuta, ma dormivi così bene ma alle 7. Ma non si fa, ma! Ti è bevi l'ovetto, ti è che ti tira su, non t'arrabbiare. E sbatti. E che non hai capito? Io ce la fa. Beh, ah, noi se famo così non combineremo mai niente qua. Beh, ma è uguale, alle 11 alle 7 è uguale, ma tanto. Torniamo in questo crinale pericolosissimo fra mamme che ormai appartengono alla letteratura e mamme che appartengono alla realtà. C'è un altro aspetto rispetto alla mammificazione, che è un processo molte volte prodotto dallo stesso soggetto. La mamma vuole essere mammificata perché gli piace avere dignità, avere centralità, avere esasperato possesso della coscienza e dei corpi di altri esseri umani per tutta la vita. Molte volte sono gli stessi figli, la società, gli stessi mariti che amano la mammificazione. Un altro dei problemi che è trattato nel libro di Cristina Perrotti è quello del fatto che la mamma, una volta che entra nel ruolo, nella dimensione di mamma, ma anche le mamme moderne, ho sentito lamentele di molte ragazze trentenni, trentacinquenni, una volta varcata la soglia magica, mistica e sacra del mammismo, non possono essere più donne. La mamma non può avere interessi culturali, la mamma non deve assolutamente occuparsi altro che di figli, la mamma non può più nemmeno avere il lecito diritto dell'esercizio della propria intima d'azione. La mamma è il sesso. Cristina Perrotti, la vecchia mamma di quelle di cui parlavamo, naturalmente aveva completamente sublimato ogni attrattiva, anzi doveva sformarsi. La vera mamma della tradizione è una mamma che ormai è una sorta di palla di grasso, quindi è più accogliente e si occupa soltanto di far tortellini, pasta sfoglia, ragù. È impensabile pensare possa avere una sessualità. Ma le mamme di oggi invece come se la mettono da quel punto di vista? Beh, non ci rinunciano. Se avessimo più tempo probabilmente lo faremmo anche più spesso e volentieri. Nel libro SS Mamma, pagina 79, abbiamo dedicato... Non necessariamente con il papà, poi, con chi gli pare. No, questo è un diritto lecito. Io sono molto aperto da questo punto di vista. Sennò rientriamo nei ricatti affettivi. Detto questo... A pagina 79 noi abbiamo dedicato un paragrafo proprio all'argomento sesso, prima, durante e dopo. Posso leggere un piccolo passaggio? Sì, sia sì. Nel caso in cui abbiate deciso di partorire in ospedale, sia nel caso in cui abbiate scelto di far nascere il vostro bambino in casa, dedicate sempre del tempo alla vostra patatina. Massaggiate il perineo, quella parte del vostro corpo che va dalla vagina all'ano, con olio di mandorle dolci. Questo gesto quotidiano farà sì che la pelle di questa zona rimanga elastica e giovane. Non si vive di solo contorno occhi. Cioè, se non ha l'olio di mandorle dolci, può usare dei succedanei, può usare l'olio extravergine di oliva. Perfetto, la mamma come una bruschetta, c'è una cosa meravigliosa, ci affascina. Fabrizio Blini, questo fatto, diciamo la verità, ci sono dei grandi tabù sulla mamma legata alla sua autonomia anche di gestione fisica di se stesso. La mamma quando incinta è intoccabile, quando in realtà erano dei momenti che per esplosioni ormonali la donna è maggiormente dedita al piacere della carne. La mamma dopo che ha fatto il figlio, figuriamoci, è sacra, non si tocca. questo contribuisce anche a una idealizzazione, una sacralizzazione. La mamma è come una santa, quindi se è santa bisogna venerarla. Sì, sì, la mamma è intoccabile, è intoccabile. Per tutto quello che riguarda il sesso, si può dire che la mamma sta al sesso come Attila sta all'erba. Cioè, dove passa lei non si può più parlare, e questo riguarda sia l'attività individuale che soprattutto quella dei figli. Cioè, i figli non devono praticare... In genere, naturalmente, dei sensi di colpa totali. Sì, sì. La mamma è il preservativo del preservativo. È la cintura di castità, sì, di ogni figlio. Eliana. Ciao, buongiorno Nicoletti. Allora, io ho 5 figli, non sono una mamma giovanissima, però ho 54 anni. Vabbè, 54 anni, 5 figli, è una buona media. Sì, direi di sì. Niente, direi che sono d'accordo con il tuo ospite che ha scritto questo libro sul lato oscuro delle madri, perché evidentemente questo lato c'è. Sono d'accordo col fatto che i luoghi comuni, le frasi delle madri, le diciamo tutti ancora. Oggi ridevo quando vi sentivo, perché a volte qualcuna di queste frasi parte anche da me. Diciamo che una mamma con tanti figli ha meno occasioni di viziare i figli. 5 figli è una media alta, diciamo, rispetto all'attualità. Quindi... Infatti direi che la mia soluzione, quella di mio marito, che comunque è sempre stato molto utile. Per farli avrà dato il suo contributo. Mi ha dato tanto aiuto anche nel crescerli. E la nostra soluzione è stata quella che erano tanti, quindi non siamo stati né invasivi né eccessivamente preoccupati per loro, né tutto il tempo sopra quindi, di loro. Chi ne fa tanti, li gestisce all'antica, un po' in maniera più brada. Guarda, la soluzione è tanta libertà di pensiero, poca libertà di azione. Si fa come si dice a casa, tutti aiutano come i moschettieri. Come una caserma, si diceva una volta. Esatto, e oggi sono ragazzi che studiano all'università, lavorano e danno una mano in casa. Quindi, questa è una famiglia, diciamo, organizzata su modelli tradizionali, 5 figli sono un buon numero, fatene tanti, almeno state sicuri che non avrete modo di viziarli. Maria Luisa. Buongiorno. Io ho chiamato perché volevo comunicare la mia esperienza. Vivo da 12 anni in Inghilterra e ho 2 figli di 4 e 7 anni, e quindi nel tempo ho potuto paragonare i diversi modi di essere mamma in 2 culture diverse. E quindi qual è la sintesi che ci può fare? Che sempre di più apprezzo la nostra struttura familiare e il modo con il quale noi siamo, noi mamme, ma anche poi noi come papà, stiamo con i nostri figli. Quindi lei, questo dà una giustificazione al fatto che il Wall Street Journal mette le mamme italiane prima di tutte le altre mamme, perché sono così carenti alle loro latitudini che dice figurati. Non c'è ombra di dubbio. La struttura familiare là per me è sfilacciata. Si sta insieme e poi... Ma sono insieme delle individualità che mantengono questo bisogno di conservare e delimitare la propria individualità. La struttura familiare nostra è un coacervo di persone che stanno insieme e imparano a stare insieme, cercando anche però di conservare una certa individualità. Questo imparano a stare insieme e si amano insieme. Naturalmente nelle migliori e più idilliache delle ipotesi. Giro finale, Cristina Perrotti, su questi ultimi 2 interventi. Prendo sempre come una grande occasione il fatto che siamo in Europa e abbiamo la possibilità di viaggiare spendendo anche pochissimo. Io devo confessare che ho imparato molto come mamma dalle mamme francesi in relazione a questo rapporto più semplice, disinvolto, sereno che hanno con il cibo e quando si tratta di bambini, e dalle mamme tedesche per quanto riguarda la serenità. Ho visto nei parchi, di cui Berlino per loro fortuna è piena, questo grande rispetto degli spazi rispettivi, quindi i bambini giocavano liberamente e dall'altra parte le mamme, i genitori e papà si godevano la giornata, leggevano un libro, non c'era nessuna invasione di campo. Ecco, queste 2 cose le ho imparate da loro. Fabrizio Blini, quindi deve essere un puzzle fatto di pezzi, una sorta di Frankenstein, la mamma ideale, di pezzi di mamme di tutta Europa. Una battuta, siamo gentili. Beh sì, bisognerebbe fare un sincretismo e prendere un pezzettino un po' da tutto il buono di ogni cultura. Vabbè, pigliate la motosega, cominciate a segare le mamme e fatene una che sia accettabile. A domani.